Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 6 giugno 2015. Orti urbani. Bologna conserva il primato. Se Roma è ancora la città europea con maggiore superficie agricola d'Europa, tallonata da Milano che sta investendo su questo fronte, il primato di Bologna nel settore degli orti urbani resta saldo. Il capoluogo emiliano è stata la prima città italiana a dare grande rilievo al progetto degli orti sociali. Fin dagli anni Ottanta, infatti, sotto le due torri si è promosso l'affidamento di piccoli appezzamenti di terra coltivata come strumento di integrazione sociale per gli anziani, estendendo poi l'iniziativa a tutti i cittadini. Ora si sta progettando un nuovo allargamento delle aree orticole. Fin qui la notizia del 6 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. La città emiliana conta 2.700 appezzamenti in 20 aree orticole. Giorgio Prosdocimi Gianquinto, docente di orticoltura all'Università degli Studi di Bologna. Se consideriamo il tipo di coltivazione tradizionale, quindi su terreno, ci sono moltissimi comuni in Italia che sono molto sensibili a questo aspetto. Bologna, l'Emilia Romagna innanzitutto, ma non solo, ma anche Milano c'è una grandissima tradizione di orti comunitari o di orti sociali, Firenze, Livorno e via via, anche Napoli ultimamente. E quindi c'è una certa sensibilità dei comuni che mettono molto spesso a disposizione delle aree che poi vengono in qualche modo lottizzate, insomma, divise in lotti e aggiudicate a varie persone, a varie famiglie. Ecco, fino al momento attuale questi orti erano più degli orti sociali, degli orti un po', come dire, a funzione principalmente anche terapeutica, erano principalmente destinati alle persone anziane, mentre la domanda per poter coltivare un orto attualmente si è allargata moltissimo anche alle famiglie giovani, alle coppie giovani, anche i single, agli immigrati. Poi ci sono altri aspetti legati invece ad altre magari tipologie di orto, quindi gli orti sui terrazzi. Quindi dal punto di vista normativo il tutto dipende, per esempio, da prevedere, per esempio, dei carichi sulle terrazze o sui tetti che possono prevedere l'uso di contenitori d'acqua che possono pesare anche diversi chili o centinaia di chili, quindi prevedere questo sarà un problema probabilmente anche degli architetti, degli ingegneri, prevedere carichi maggiori sui tetti, dei sistemi di raccolta, delle acque piovane, prevedere appunto la possibilità di accedere all'acqua, di avere accessione all'acqua, di avere accessione anche all'elettricità, perché alcuni di questi sistemi prevedono, come so, l'uso di timer per la temporizzazione dell'irrigazione, quindi nelle terrazze, nei tetti, prevedere cose di questo tipo, prevedere sistemi soprattutto nei condomini e quindi nei tetti, terrazze dei condomini, prevedere sistemi di sicurezza, nel senso il tetto deve essere in sicurezza. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.